Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Com'è andata stanotte? Avete riposato bene? Siete svegli? Oggi io vorrei parlarvi di ipnosi. È una tecnica che viene sempre più utilizzata in medicina, ma partiamo dalla definizione del vocabolario della lingua italiana. Allora, che definisce l'ipnosi come uno stato fisiologico, in genere indotto artificialmente, apparentemente simile al sonno, che permette una grande varietà di risposte comportamentali alla stimolazione verbale. Ma c'è di più e c'è d'altro. E oggi lo scopriamo insieme alla dottoressa Sandra Nonini, che è già in linea con noi, anestesista dell'ospedale Niguarda di Milano. Dottoressa Nonini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dottoressa Nonini, lei deve un po' spiegarci un po' che cos'è l'ipnosi e anticipare un po' le nostre domande, andare un po' a chiarire tanti luoghi comuni, tanti dubbi, no? L'ipnosi è un po' considerata qualche cosa di magico, mi ipnotizza e si impossessa di me, della mia mente. Noi con lei naturalmente entriamo in sala operatoria dove l'ipnosi viene sempre più utilizzata. Che tipo di ipnosi fate voi, medici, anestesisti, allora, nello specifico? Esatto. Io le parlo di ipnosi che può essere applicata in vari ambiti, ma ovviamente quello che mi riguarda è l'ambito medico, soprattutto ambito, direi, chirurgico. Sì. L'ipnosi come la definizione che ha dato lei, stato fisiologico di coscienza, non è sonno, non è magia, non è anestesia generale. L'ipnosi è una tecnica che viene utilizzata, devo dire, come dice lei, sempre più frequentemente attraverso una formazione che viene fatta agli operatori sanitari, che siano medici, fisioterapisti o infermieri, e che permette di fatto di avvicinarsi a quelle che sono le esigenze del paziente, andare ancora più incontro a quella che è l'esigenza del paziente di vivere un'esperienza, soprattutto in ambito chirurgico, ma vedremo che ci sono varie applicazioni non necessariamente chirurgiche, in cui il paziente si trova già in uno stato di ansia, che deve affrontare una procedura che non sa bene che cosa sia. È uno stato per cui si trova in uno stato di bisogno ed è nel momento in cui si propone l'ipnosi, l'ipnosi va incontro a questo bisogno di affrontare un'esperienza spesso conosciuta, spesso sconosciuta, in maniera, come dire, più, non dico rilassata, ma con qualcuno che ti sta vicino e ti assicura che quell'esperienza sarà un'esperienza positiva. Quindi, importante, l'ipnosi viene proposta, sempre in ambito medico, prima della procedura, si spiega al paziente che non è sonno, e questo è testimoniato da più studi fatti recentemente in cui attraverso la risonanza funzionale, quindi si vede l'attività cerebrale, e si vede che l'attività cerebrale durante ipnosi è diversa e va a stimolare aree diverse rispetto alle aree stimolate durante il sonno o durante l'anestesia generale, per esempio. Quindi con il paziente che deve essere sottoposto a una determinata procedura si stabilisce una sorta di contratto, sì, in cui si spiega che cos'è l'ipnosi, come viene attuata, quindi la tecnica induttiva che si viene utilizzata e che va incontro a quelle che sono le esperienze del paziente. Esempio, se un paziente mi dice io preferisco affrontare questa cosa subito con gli occhi chiusi, allora l'ipnosi sarà indotta col paziente occhi chiusi. Se il paziente mi dice guardi io preferisco stare a occhi aperti, allora si utilizza un'altra tecnica induttiva che prevede che il paziente sia inizialmente ad occhi aperti. Il contratto che si fa all'inizio, mi passi questo termine che non è bellissimo ma che di fatto rende, è quello che si fa, di fatto permette a me di conoscere chi ho davanti, al paziente di conoscere me, quindi di instaurare un rapporto di fiducia che non necessariamente avviene giorni prima della procedura, ma può avvenire anche nei 5 minuti precedenti, e soprattutto si spiega, si fugano quelle che sono alcune paure del paziente. Ecco, prendiamole un po' in esame, dottoressa Nonini. Certo, Allora, consideri che durante l'ipnosi il paziente è presente all'ambiente, il paziente è assolutamente in grado di sentire tutto quello che c'è attorno, ma è come se in qualche modo, nonostante sia presente lì, la mente del paziente è talmente capace di immaginare e di seguire le istruzioni che l'ipnologo dà, e qui questo è importante, avere la fiducia, no? Quel rapporto di fiducia tra ipnologo e paziente, per cui lui è lì in quella stanza, sa benissimo di essere in quella stanza, ma la sua mente è così capace che riesce a immaginare di essere in un altro luogo. E un po' è lì, ma con la mente altrove. Con la mente altrove. E quando il paziente è in ipnosi, e l'ipnologo sa che il paziente è in ipnosi perché ci sono tutta una serie di modifiche a livello somatico, che quindi a livello del volto, dei muscoli che si rilassano, della postura del paziente, e quindi che l'ipnologo può anche oggettivare toccando il paziente stesso, a quel punto col paziente in ipnosi si possono sviluppare delle abilità, tra cui l'analgesia di cui lei parlava prima. Per cui una volta che il paziente è in ipnosi, se il paziente è capace di sviluppare analgesia, allora sì che alcune parti del suo corpo, attraverso sempre tutta una serie di immagini suggerite dall'ipnologo, possono diventare molto meno sensibili. Esempio, un intervento che deve essere fatto al polso, un intervento superficiale, si può suggerire al paziente che quel polso sia immerso in acqua fredda. L'acqua fredda è un'esperienza di tutti, tende a non far più sentire, no? La mano immersa nell'acqua fredda. A quel punto si possono fare degli interventi a livello della mano, senza o con meno anestesia locale, o addirittura in pazienti particolari, per esempio pazienti allergici agli anestetici locali, si può addirittura prevedere di farlo senza anestesia locale. Dipende non solamente dall'operatore, ma anche dal paziente. Brava, la cosa è quella. Il problema non è tanto l'ipnologo. Sì. L'ipnologo ha il compito di guidare il paziente, ma è di fatto il paziente, è il paziente che ha la capacità di andare in ipnosi. Ma questa capacità di andare in ipnosi si sviluppa? Cioè, magari la prima volta non è un po' impacciato, allora, e poi si riprende, oppure c'è gente proprio che con l'ipnosi, allora, non ci azzecca? Gli studi dicono che l'80% della popolazione è ipnotizzabile, un 20% non lo è, sì? E di quell'80% il 20% è ipnotizzabile con abilità spiccatissime, che vanno fino all'amnesia durante l'ipnosi, ma riguarda una percentuale limitata. In realtà la condizione che, e le parlo, questo vale soprattutto in ambito medico, perché l'ipnosi venga, mi passo questo termine, è veramente lo stato di necessità, di bisogno del paziente. Certo. O il desiderio della persona stessa di essere ipnotizzata. Già questo fa scattare quella fiducia e riduce quel senso critico che tutti noi abbiamo. Anche io, quando ho iniziato a sentire parlare di ipnosi, ho detto: ma cos'è sta cosa? Aspetta che la provo sugli altri. Quindi la necessità, veramente, e ribadisco, nel mio ambito, con ambito chirurgico, insomma, affrontare determinati tipi di procedure non è che proprio renda tranquilli. Infatti. Quella necessità è il trigger, è la condizione sine qua non che poi può portare. Lo mette nella condizione. A proposito di intervento, io ho proprio letto di un intervento fatto da voi al Cardio Center dell'Ospedale Niguarda di Milano, sostenuto tra l'altro dalla Fondazione De Gasperis, per sostituire una valvola per via percutanea. Esatto. Quindi, insomma, è un intervento che naturalmente uno non è che affronta a cuor leggero, e probabilmente il paziente aveva questa necessità e ha risposto bene all'ipnosi. La signora ha risposto benissimo all'ipnosi, consideri che non era un qualcosa di preventivato. La signora è arrivata in sala operatoria con delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche che rendevano, come dire, a rischio la sedazione che si fa usualmente in questo tipo di interventi. Sono interventi che prevedono di stare per un'ora e mezza, due, completamente sdraiati, fermi e immobili. Per cui con una sedazione la signora avrebbe avuto problemi soprattutto a livello respiratorio, per cui abbiamo pensato di proporre l'ipnosi e la signora ha risposto perché no, molto anzi, bene. Bene. È stata bravissima. È stata bravissima. Per cui lei ha tollerato la procedura, è stata ferma e immobile per un'ora e mezza, è stata fatta dall'anestesia locale, ma anche l'anestesia locale che è stata fatta, perché a livello inguinale si entra con dei cateteri molto grossi, consideri che l'anestesia locale non l'ha apprezzata più di tanto, perché durante l'ipnosi abbiamo suggerito delle immagini che facevano sì che la parte dall'ombelico in giù fosse meno sensibile. E la signora, essendo molto brava e molto capace e si è fidata, è stata bravissima ed è riuscita a tollerare tutto quanto senza sedazione endovena, senza una sedazione profonda, ma solo con dell'anestesia locale. Quando ci si risveglia, che succede? Cioè, ci si risveglia allo schiocco delle dita? Non credo. Ma come ci si sente dopo questa seduta di ipnosi, che non è sonno, ma insomma siamo altrove, ma siamo lì e qualcosa capita, ecco. Consideri che sì, non ci si risveglia all'ipnosi, ma c'è un'esduzione dall'ipnosi, quindi una fuoriuscita dall'ipnosi. Devo dire che i pazienti sono tutti molto contenti e soddisfatti, nel senso che si rendono conto di essere stati, come dire, in un posto un po' strano, che è un posto che loro scelgono peraltro. Classicamente durante l'ipnosi si chiede al paziente di pensare e immaginare un posto in cui loro sono tranquilli, al sicuro, rilassati. Quindi non affaticati, ma contenti di essere stati altrove e comunque di tornare. Assolutamente. Dottoressa, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato un po' questa tecnica, per aver anche chiarito dei dubbi. Insomma, non è sonno, non è magia, può essere assolutamente uno strumento utile anche per la sala operatoria. Dottoressa Nonnini, buon lavoro, grazie, le auguro una buonissima giornata. Grazie, salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie a Carmelo Lauricella, che è in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi, che è in assistenza e in redazione. Vi do come sempre appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.